Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Non sono riuscito mai a telefonare per fare i complimenti della vostra trasmissione, in particolare per la voce, per il modo di parlare, per il modo di porsi del Deborah Rosciani. E dico sempre, io peccato che sono sposato. Due di denari. Perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Ma lo sai che è stato il weekend di Puliamo il Mondo, promossa come ogni anno da Lega Ambiente? Ah sì, certamente ti sei alzato. Mi sono alzato in rispetto appunto del grande Pierangelo Bertoli. Sì, buongiorno Deborah. Ciao. Buona settimana, bentornata. Hai partecipato anche tu alla Pulizia del Mondo ieri? Io bene il mio piccolo, perché ho riordinato un po' in casa e c'era abbastanza da fare, quindi nel mio piccolo ho pulito anch'io un pezzo di Quanti mondo. Quanti sacchetti di spazzatura hai prodotto? Beh, effettivamente abbiamo incrementato la produzione, probabilmente anche come dato mensile, insomma. E quindi vediamo. Il sindaco Sala ti legna quest'anno? No, allora il sindaco Sala mi ha scritto, ma credo cosa come tanti altri sindaci. Sì, esatto. Sì, sì. Il sindaco Sala è sempre molto gentile, mi scrive anche per email, il sindaco di Milano, però immagino che così facciano molti sindaci, dicendomi: caro cittadino, io ti voglio bene, quindi anche tu devi volermi bene. Però sei un po' zozzone. E devi pagarmi però, perché io ti tiro via la spazzatura, la rumenta, il ruffo. Esatto. E soprattutto quindi mi impegno anche ad una diversificazione del rifiuto, una differenziazione, e di conseguenza anche quello è un onere che deve sostenere qualcuno. Ma io mi chiedo, Mauro, con tutte le attività economico-produttive chiuse tra marzo, aprile e maggio, tutti questi poveri disgraziati, soprattutto, che ne so, le attività commerciali, ma anche tante aziende che hanno dovuto abbassare la serranda, la ristorazione che ne produce tanta di spazzatura, devono pagare anche loro correttamente la Tari, visto che questa è la grande protagonista della trasmissione di stamattina? Allora, non ti rispondo io, perché ti farò rispondere da un esperto di valore mondiale. Guarda, più che rispondere a me, dobbiamo rispondere a tutti i diretti interessati, i contribuenti che sono alle prese con questo bollettino che è arrivato, ma che non digeriscono molto volentieri quest'anno, giustamente, aggiungo io. Allora, avete capito che alle 11.30, avete capito da questo siparietto tra Deborah e me, che alle 11.30 parliamo della Tari, la tassa dei rifiuti. Probabilmente avete già ricevuto il bollettino, ogni comune ha una certa un certo spazio di manovra, come dire, però alcune regole poi restano per tutti. E sappiate che incombe su di noi dal 2021 un riordino complessivo che però lascia anche presagire qua e là la possibilità di rincari. Allora, intanto per buone notizie tu lunedì mattina, eh? Beh, fortuna, guarda, che compenserò io con i mercati, che oggi sono un po' più sereni. Ho cercato di addolcirla come potevo, però non c'è niente da fare. Ricordo solo i numeri così in apertura: 800240024, il solito numero verde per intervenire in diretta. Se no, SMS e WhatsApp al 349-238-6666, li riceviamo e li leggiamo, come sempre, molto volentieri. Cara Deborah, vuoi, visto che i mercati invece sono una buona notizia e che io mi sono subito presentato con cartelle della tassa rifiuti e rincari per il 2021, allora magari facciamo Meteo Borsa, va là. Facciamola. Meteo Borsa. E mi fa particolarmente piacere questa mattina la trasmissione, la nostra rubrica sulle previsioni del tempo sui mercati finanziari, perché abbiamo un debutto che è quello di Manuela Maccia, direttore investimenti di BNL BNP Paribas. Ben trovate e buongiorno, grazie. Grazie a voi, buongiorno a tutti, buongiorno Deborah. Allora, intanto il compito a noi di descrivere la situazione in questo momento. Venerdì Wall Street ha chiuso positivamente ma ha archiviato una settimana piuttosto traballante ed è stata piuttosto negativa invece la settimana complessiva di tutta l'Europa dal punto di vista del mercato azionario. Stamane invece la partenza è piuttosto promettente, abbiamo un rialzo di Francoforte del 2,27%, Parigi più 1,59%, Londra più 1,13% e Milano in rialzo di un punto e mezzo. Per la verità già qualche rallentamento lo vediamo, perché nel mio ultimo collegamento delle 10.30 la situazione era anche migliore. Allora, dottoressa Amaccia, cominciamo un po' con il gettare lo sguardo alle prossime giornate. Ci sono molti appuntamenti a cui voi come operatori finanziari guarderete per cercare anche di orientare possibilmente le scelte di investimento del brevissimo termine. Abbiamo il super confronto domani sera tra Biden e Trump, il primo confronto scontro diretto prima delle elezioni, poi i dati macro che saranno decisamente rilevanti in settimana, a partire da quello sulla disoccupazione americana di venerdì. Ma non si esaurisce qua il calendario degli eventi finanziari. Esatto, come ha detto lei, una settimana ancora piena di, da un lato, dubbi e domande sulla crescita, e quindi saranno estremamente importanti i dati macroeconomici, in particolare appunto quello sulla disoccupazione negli Stati Uniti, ma non solo, ci sono diversi leading indicators, i PMI, quindi delle inchieste avanzate per capire lo stato di salute del settore manifatturiero da un lato, che sta dando segnale di ripresa, e quello dei servizi invece ancora più dubitante sulla ripresa. E poi una settimana molto politica, come accennava lei, appunto il primo dibattito tra i due candidati, ma si vede già che le elezioni americane faranno parte dei temi caldi delle prossime settimane. Oggi un po' più di sereno rispetto alla settimana scorsa, con una meteo assolutamente più incerta e negativa, anche se dal nostro punto di vista, ecco, il mese di settembre nel complesso è stato particolarmente difficile, anche come contraltare in realtà di un'estate e di un mese d'agosto invece piuttosto rassicurante, e dove avevamo visto i principali indici, in particolare quelli americani, ritoccare nuovi massimi. Siamo entrati quindi in una fase che noi definiamo di riassestamento, se vogliamo, rispetto a una ripresa dei mercati, di un trend rialzista che abbiamo visto da marzo fino all'estate, con qualche presa di beneficio a giugno. Quindi dopo il mese di agosto, settembre è stato invece un mese di presa di profitto che pensiamo di poter, speriamo di poter, insomma, chiudere con la chiusura del mese questa settimana, ma comunque una fase che resterà ancora di riassestamento per quanto ci riguarda nell'immediato. Dovrebbe esserci anche un intervento della Presidente del Lagarde al Parlamento europeo, che probabilmente insomma confermerà la politica fin qui tenuta, quanto anche ha detto di recente, è così? Quindi immagino sarà rassicurante. Che possiamo aspettare, le banche centrali hanno un ruolo chiave in questa fase, ovviamente, soprattutto dopo l'intervento di Jackson Hole della Fed, i mercati e gli investitori hanno un po' inteso la nuova politica, la nuova linea guida che la Fed ha dato, con un target di inflazione a medio periodo in base più di media e non di target assoluto. Tutti hanno inteso questo come una sorta di floor, come una sorta di protezione messa dalla Fed, con dei tassi di interesse che saranno bassi a lungo termine. È chiaro che anche la BCE, da questo punto di vista, le dichiarazioni di vari membri stanno portando anche qui verso la convinzione che farà il necessario per poter supportare la fase di ripresa, anche perché non dimentichiamocelo, nelle ultime settimane, in particolare in Europa, ed è per questo che le borse europee stanno soffrendo in relativa, hanno sofferto di più anche settimana scorsa, abbiamo di nuovo un aumento dei contagi dovuti dalla pandemia Covid-19, con delle misure restrittive non coordinate, fatte a livello di singoli mercati, penso alla Spagna, alla stessa Francia o Regno Unito, che ovviamente possono avere un impatto sulla ripresa in corso e potrebbero portare, questo è un po' il timore del mercato, appunto dicevo all'inizio, dubbi sulla crescita, potrebbero portare a delle revisioni della crescita nell'ultimo trimestre dell'anno, qualcosa quindi chiaramente di non buon auspicio per i mercati, anche perché, lo ricordiamo, entriamo a breve nella terza stagione degli utili, quindi la pubblicazione degli utili del terzo trimestre. Tendenzialmente fino adesso i mercati hanno guardato oltre, diciamo, i pessimi risultati degli utili del secondo trimestre, che ovviamente hanno avuto il crollo più importante registrato, ma tutti i mercati, gli investitori hanno guardato oltre, pensando poi alla ripresa a venire e ai supporti delle banche centrali e anche dei vari governi attraverso piani di stimolo. È molto ovvio quindi che andrà guardata con grande attenzione l'eventuale ritorno di misure che potrebbero mettere in discussione o quantomeno rallentare le prospettive di ripresa economica. Effettivamente si sta discutendo in congresso con sempre le consuete schermaglie politiche di un altro maxi pacchetto appunto di stimoli economici che dovrebbero arrivare dall'amministrazione in questo caso, quindi non parliamo ovviamente di banche centrali, quindi vedremo se si troverà una quadra anche su questo. A proposito della nuova stagione di trimestrali, dottoressa Maccia, chiaramente abbiamo visto quanta euforia abbiano rappresentato i conti dei big della tecnologia statunitense, il Nasdaq lo continuiamo a monitorare sempre con attenzione, se non addirittura con curiosità a questo punto. Più 25% dall'inizio dell'anno, ma quando ha toccato i minimi tra marzo ed aprile, da quel punto di minimo l'indice della tecnologia americana è in crescita di oltre il 70%. Quanto potranno continuare a correre i big high tech statunitensi e quando ad un certo punto potranno ricominciare a lasciare il passo anche alle società appartenenti alla cosiddetta old economy più tradizionali, che ne so, la manifattura, il consumo americano? Come diceva, infatti il rally che c'è stato dai minimi di marzo è stato molto concentrato soltanto su questo settore. Addirittura, se prendiamo l'S&P 500 e togliamo le famose FANG, quindi le 5-6 big tech, vediamo che l'indice americano da inizio anno è sostanzialmente piatto. Gli utili di queste aziende, anche con tutta la tematica dello stay at home, quindi lavorare e vivere da casa, ovviamente hanno dato dei risultati superiore alle aspettative. È molto ovvio però che perché il trend rialzista riprenda ed abbia vita più lunga come noi ci aspettiamo nel medio-lungo termine, c'era bisogno, ed è sano da un lato che ci sia stata una correzione, quindi più che una correzione direi una presa di beneficio su questo settore sul quale si erano andati a scontare, le valutazioni stavano scontando diciamo dei multipli eccessivi, e dall'altro è sano e a nostro parere è necessario, perché il trend rialzista riparta, che oltre a questi settori che hanno delle dinamiche di crescita secolare di medio-lungo termine che sicuramente verranno confermate nel tempo, però è necessario che il trend rialzista si allarghi ad altri settori, che ci sia una rotazione, soprattutto un allargamento delle performance di altri settori. E noi pensiamo che le pubblicazioni degli utili del terzo trimestre, se saranno un po' più equilibrate verso altri settori, possano portare a questo broadening, questo allargamento del trend di mercato, che altrimenti era troppo concentrato, ed è sano che ci sia stata una fase di correzione. Peraltro ricordiamoci, ad agosto c'erano state posizioni molto aggressive anche di call option al rialzo che avevano portato a delle correzioni, se vogliamo, più di natura tecnica. Sì, non esatto, infatti, anche per spiegare un po' ai nostri ascoltatori che cosa avviene quando ci sono queste operazioni appunto che lei ha appena descritto, richiamo su call option, ce lo spiega dottoressa Mascia, cosa significa tecnicamente per il mercato? In realtà è un po', per dire in maniera semplice, è un po' un ciclo che si autoalimenta. Abbiamo visto che soprattutto negli Stati Uniti c'è stata una tendenza, soprattutto durante la fase di lockdown e lo stay at home, un moltiplicarsi di applicazioni di trade online, e questo ha fatto sì che sostanzialmente il posizionamento del mercato sia andato sempre a rincorrere il rialzo di questi titoli. Molti operatori continuavano a scommettere sul rialzo, poi ovviamente le questioni tecniche di funzionamento delle opzioni hanno fatto sì che nella fase di rialzo questo movimento venisse amplificato, così come poi l'abbiamo visto a ribasso con l'arrivo a scadenza di molte di queste opzioni di derivati. In sostanza, al di là della questione poi di funzionamento tecnico, quello che è importante per i mercati è che ci sia una riconvergenza dei fattori fondamentali rispetto alle valutazioni. Per questo è così importante vedere che poi gli utili delle aziende tornano a crescere. Ripeto, quest'anno abbiamo visto utili in crollo a due cifre, del 15-20%, anche di più su alcuni settori. È molto importante invece iniziare ad avere qualche conferma di crescita positiva degli utili, che vada quindi a chiudere questo gap che si è creato tra le valutazioni da un lato e i fondamentali sottostanti. Perché, caro Mauro, come ti ricorderai, il mercato quando sale, sale con le scale, ma quando scende e decide di scendere, cosa usa? Prende l'ascensore, esatto. Questa qui la sapevo. Ecco. Allora, grazie a Manuela Maccia, direttore investimenti di BNL BNP Paribas, per averci aiutato a interpretare le condizioni climatiche dei mercati finanziari di questa settimana. Grazie e buon lavoro, dottoressa. Grazie, arrivederci presto. Dream Dream, edicola risparmio. Abbiamo parlato delle opzioni, parliamo un po' di cose sottostanti, perché io non ho capito proprio tutto, però ho capito che queste opzioni sono delle aspettative. E invece vorrei parlare di cose solide, non so, il mattone ad esempio. Sì, vai. Perché ci sono due cose da segnalare oggi sul Sole 24 Ore. L'una è una analisi Gabetti su 59 edifici per verificare quanto è difficile fare, o non è difficile, fare questo doppio salto di classe per avere l'accesso al bonus, al super bonus del 110%. E allora, secondo questa analisi che viene presentata oggi sulle pagine del Sole 24 Ore, non è così complicato per un condominio riuscire ad avere questo doppio salto di classe. Nello stesso numero del Sole 24 Ore di oggi trovate anche un numero speciale dell'Esperto Risponde, il fascicolo che tutte le settimane, ogni lunedì, è insieme al nostro quotidiano. Ecco, in questo numero sono state raccolte tutta una serie di casi e risposte proprio sul super bonus del 110%. Quindi correte in edicola, potete anche sentire anche Due veloci, Didenari poi in podcast se volete. Ci trovate sempre sul sito www.radio24.it. Gianmarco Ferronato, che è di là in regia, che mi conferma che si può ascoltare anche in podcast. Noi per parte mia possiamo dirvi che non è reato. Quindi doppio appuntamento con l'Esperto Risponde e con questa analisi per il super bonus 110%. Guarda che Gianmarco ride, perché sai che quella bustona di cioccolata che ho portato questa mattina a tutta la redazione gliel'ho lasciata lì vicino, quindi lui è tutto gaudente per questa ragione, perché spizzica ogni tanto qualche bocconcino. Ah, non è allegro perché gli ho parlato del super bonus del 110%. Anche per quello, però si è reso più lieta la notizia, così un po' pescando anche nel sacchettino pregiato. Senti, a proposito di mattone, sì, che è solido, ma qualche volta si può anche finanziarizzare, perché può capitare che magari una grande avventura edilizia qualcuno la sostenga attraverso naturalmente la richiesta anche al pubblico dei piccoli risparmiatori. Negli ultimi anni non sono stati tantissimi in Italia, non hanno avuto una grande fortuna, ma hanno circolato anche i fondi immobiliari, generalmente sono chiusi, sono riservati ad investitori istituzionali, ma ce n'è stato un pacchetto che è circolato anche attraverso le poste qualche anno fa e noi ne abbiamo parlato, perché erano quote di fondi appunto immobiliari distribuiti attraverso gli sportelli postali, piazzati al piccolo risparmiatore come investimenti sicuri, e invece poi sono investimenti che si sono volatilizzati perché il sottostante non ha avuto un grande successo, quindi le avventure immobiliari a cui erano legate non sono terminate. Non sono andate a buon fine, diciamo così. Per dirla così proprio in maniera elegante. Che cosa vogliamo raccontare questa mattina? Che grazie alla procedura di conciliazione paritetica, una grande organizzazione dei consumatori che per la verità devo dire porta a casa un risultato di successo dietro l'altro, perché questo le va riconosciuto, Confconsumatori, ha recuperato i risparmi di 4 famiglie siciliane che avevano investito appunto nei fondi immobiliari Obelisco distribuiti presso il canale postale. Questo investimento lo avevano fatto intorno al 2005, 4 famiglie siciliane, 3 catanesi e una ragusana, avevano acquistato appunto proprio presso Poste Italiane numerose quote dei fondi immobiliari Obelisco. Peraltro era anche un investimento in qualche maniera accattivante, perché il taglio minimo di investimento era anche piccolino. Ogni quota di questo fondo valeva 2.500 euro, loro però avevano investito molto di più, oltre 100.000 euro a famiglia. Però tramite appunto la Confconsumatori sono stati inviati i primi reclami a Poste Italiane contestando i fatti, chiedendo il rimborso del capitale investito, e poi si è andata avanti appunto con la richiesta di procedura di conciliazione paritetica tra Poste Italiane e Confconsumatori, e quindi sono stati recuperati appunto gran parte dei loro soldi, oltre il 90% dell'investimento iniziale. Questo è uno dei casi che poi, come dire, restano un po' come memoria e aumentano magari la diffidenza nei confronti degli strumenti di investimento. Di questo parleremo domani, anche perché oggi presentiamo su Sole 24 Ore un sondaggio molto interessante fatto da Antonio Noto. Ne parliamo domani, perché domani, che è martedì e siamo oramai a ridosso del mese del risparmio, che sarà ottobre, domani ci sarà il consueto ormai alfabeto del risparmio. Quindi restate connessi e parleremo anche di questo problema della fiducia o sfiducia dei risparmiatori. Vediamo, di solito quando i mercati vanno bene la fiducia aumenta. Deborah, vuoi dirci adesso come stanno andando i mercati? Mi pare che siamo già in un orario consono. Sì, anche a concio direi io, ma pure adeguato. Pertinente. Hai una sigletta, Gianmarco? Deborah, Sei in ritardo. E come vai a press? Debora, le borse. E mo' faccio, ma vai a press? Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta... Due di denari. Caro Mauro, ci segnala già un ascoltatore, ricevuti il bollettino Tari, già pagato, ma causa Covid non dovevano sospendere i vari bollettini o pagamenti appunto per vari tributi? Io metterei la tassa Tari al governo, cioè tassa mancati incassi, causa Covid ovviamente, direttamente versata sui conti correnti degli italiani. No, adesso a parte un po' così la polemica dell'ascoltatore, ma il punto vero è questo, insomma, chi non ha potuto lavorare nei mesi passati deve pagare la quota per intero? Allora, qui abbiamo scomodato un esperto di valore mondiale, come sempre dirai tu a due dei denari, però in questo caso Luigi Lovecchio, che è dottore commercialista, esperto del Sole 24 Ore ed è un esperto di tributi locali, quindi meglio di lui davvero non potevo convocarti. Luigi, buongiorno, benvenuto, bentornato a due dei denari. Buongiorno a voi e ben ritrovati, buongiorno a tutti. Allora, partiamo proprio da questa sollecitazione dell'ascoltatore, perché... mi pare che ci sia una riduzione di una parte della Tari, della tassa sui rifiuti, per le attività che sono state chiuse. Però rinfrescami la memoria e soprattutto diamo questa buona notizia agli ascoltatori. Sì, allora dunque preciso innanzitutto che non c'è nessuna disposizione di carattere nazionale che abbia sospeso il pagamento della tassa rifiuti, perché le iniziative sono state rimesse a livello comunale, quindi ogni comune ha deciso quando far partire la riscossione della tassa rifiuti. Questo lo preciso perché diversamente per i tributi erariali ci sono state adottate delle disposizioni di legge che hanno prorogato i termini di versamento. Invece nei tributi comunali e segnatamente nella tassa rifiuti non c'è stata nessuna disposizione di legge, per cui sono i comuni che hanno deciso autonomamente quando mandare i bollettini a casa. E anche nuovi termini potrebbero avere spostato un po' i termini che erano abituali, giusto? Sì, sì, sì, certamente, essendo assolutamente liberi di fare quello, perché hanno, da questo punto di vista hanno autonomia. Poteri, esattamente, hanno poteri normativi amplissimi, ogni comune ha deciso quando far partire la riscossione della tassa rifiuti, però appunto ci tenevo a dire che non c'è nessuna disposizione che ne abbia sospeso il pagamento. Detto questo, poi sono state adottate delle apposite deliberazioni di ARERA, che sarebbe l'autorità nazionale che sovraintende tra l'altro alla gestione dei rifiuti, si occupa anche di somministrazione di acqua, gas, eccetera, però si occupa anche del prelievo sui rifiuti. In base a queste deliberazioni di ARERA, i comuni sono stati invitati a esentare dalla quota variabile della tassa rifiuti, qui ricordo che la tassa rifiuti che paghiamo tutti è normalmente composta da una quota fissa che fronteggia le spese generali del servizio e una quota variabile che invece dovrebbe essere rappresentativa dei rifiuti che effettivamente ho conferito al servizio pubblico. Allora, questa determinazione di ARERA ha invitato i comuni a esentare dalla quota variabile della tassa rifiuti i giorni che sono stati interessati dal lockdown, quindi tendenzialmente fino alla fine di maggio, dall'8 marzo fino alla fine di maggio, però anche su questo è stata lasciata una certa autonomia ai comuni, nel senso che i comuni, conoscendo meglio il territorio, laddove fossero a conoscenza, avessero notizie più precise sulle date di chiusura degli esercizi e sugli esercizi interessati dalla chiusura, hanno potuto modulare questa esenzione in maniera più puntuale, quindi esentando dalla quota variabile i giorni del lockdown. Ma sono eque la quota variabile fissa, sono 50-50 oppure c'è una proporzione diversa? No, ci sono, le proporzioni cambiano da comune a comune perché dipendono dai costi del servizio. Dico anche che per esperienza la quota variabile nella maggior parte dei casi è una percentuale più bassa rispetto alla quota fissa, cioè non sono 50-50, ma la quota variabile è più bassa del 50 mediamente. Tant'è vero, insomma, che da alcune parti sono state sollevate delle contestazioni, delle richieste di una maggiore esenzione a favore degli utenti colpiti dalla crisi epidemiologica. Aggiungo che comunque, avendo i comuni poteri, da questo punto di vista, alcuni comuni si sono avvalsi di questi poteri aumentando le agevolazioni per le utenze non domestiche che sono state interessate dalla chiusura. C'è un ascoltatore che ci dice che ha ricevuto già il bollettino Tari, e questo è abbastanza normale, giusto Luigi? Perché sì, i tempi assolutamente. Teoricamente, in altri tempi i bollettini Tari più o meno si ricevevano prima dell'estate, cioè verso giugno-luglio, al di là di casi in cui arrivava anche più tardi, però mediamente a giugno-luglio ricevevamo i bollettini con la prima rata. Adesso invece sono partiti i bollettini a settembre. Mi permetto solo di Milano ricordare... li ha già mandati, ci ha già rallegrato le ferie prima di agosto. Era arrivato prima tutto il agosto, plico, esatto. Ecco, sì, sì. Va bene, io mi ricordo di averla ricevuta prima, chiaramente sì, con tutte le possibilità. No, il nostro sindaco è stato molto solerte e quindi ci ha subito scritto augurandoci buone vacanze e dicendoci quanto dovevamo dare per la tassa rifiuti. Ecco, però mi viene un sospetto, Luigi. Come faccio a controllare se appunto ho dovuto chiudere causa lockdown, causa quarantena, e quindi i ristoratori ad esempio, ma anche tante altre attività produttive hanno dovuto chiudere? Come fanno a verificare se è stata applicata correttamente questa riduzione della quota variabile della Tari? Perché il bollettino, che io mi ricordi, non sempre espone in tutti i comuni esattamente come è stata calcolata la tassa. Sì, in teoria la riduzione dovrebbe in qualche modo essere evidenziata nel bollettino per il pagamento. Se non fosse evidenziata, e non c'è altra soluzione se non leggere la delibera di consiglio comunale che ha approvato le tariffe della tassa rifiuti. Magari prima della delibera del consiglio, l'usanza è che ci sia una delibera di giunta che poi porta la delibera in consiglio, e normalmente la delibera in consiglio viene approvata esattamente come l'ha approvata la delibera di giunta. Ecco, essendo atti pubblici, il cittadino si può scaricare questi atti dal sito del comune e leggere, perché vi assicuro che anche il comune di Milano questa cosa l'ha scritta molto chiaramente nelle sue delibere. Non ho verificato se lo ha scritto negli avvisi di pagamento, ma nelle delibere questa cosa è scritta chiaramente, e leggere se c'è stato riconoscimento di questa esenzione. Fin qui, diciamo, Deborah, sono le buone notizie, esatto. Perché poi se andiamo a vedere sul 2021... arrivano le complicazioni. Per concludere le buone notizie, Mauro, così completiamo questo pezzo, la possibilità naturalmente di pagare ratealmente, cioè di pagare un paio di tranche, rimane ancora, no, per la Tari, mi pare. Io sempre considero il plico cartaceo che ho in casa e che mi aspetta, con il quale dovrò fare i conti prima o poi. Ho deciso di pagare tutto in un'unica soluzione entro novembre, ma chi volesse spezzettare il pagamento, se fosse un po' troppo alto, può farlo naturalmente, solo che già la prima rata credo debba essere già stata pagata. È così, sì, dappertutto, Luigi? Allora, le rate sono divise dai comuni, quindi ogni comune ha le proprie rate. Di sicuro non è possibile decidere il pagamento forzato in un'unica soluzione, quindi va per forza stabilito il pagamento rateale. Quindi da questo punto di vista i comuni mediamente ne fanno alcuni due, alcuni tre, alcuni quattro di rate e così via. Tengo a precisare che non ci sono sanzioni in realtà che vengono applicate se uno rispetta anche l'ultima rata prevista nel progetto di rateazione. Conviene ovviamente rispettare le scadenze, però se uno riesce a versare tutto entro l'ultima rata, normalmente i comuni non applicano sanzioni. Allora, su questo aspetto ci sono già delle domande diverse, tra cui Antonio da Roma. Chiederei però un attimo di pazienza, credo di capire da quanto ci segnalano dal centralino e dall'ottima assistenza di Marco Lombardo, come sempre è addirittura lui segnala di avere un credito rispetto alla Tari, quindi che si chiede come fare a bilanciare le due cose. Altri vogliono sapere altre cose e soprattutto uno sguardo sul 2021, perché incombe questa riforma, questo riordino che però potrebbe essere foriero di aumenti. Io la butto lì, poi naturalmente Luigi Lovecchio saprà indicarci perché potrebbero arrivarci degli aumenti, ma nel 2021. Per adesso, signore e signori, traffico. Prendete i mezzi, fate il carpooling, basta che non mi intasate la tangenziale con le vostre macchine. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Due di denari. Pensavi solo ai soldi, soldi, come se avessi avuto soldi, soldi. Dimmi se ti manco, te ne fotti. Ecco, no, poi c'è sempre questo verso, Gianmarco, che bisognerebbe poi tagliare e passare magari in un altro orario, perché sai che qui a Due di Denari, nonostante si parli di tasse, cerchiamo di mantenere un linguaggio molto distaccato, e poi specialmente anche per rispetto com'è politicamente corretto stamattina, no, ma per rispetto anche di Luigi Lovecchio, che è una persona serissima e degnissima, scrive da tempo sul Sole 24 Ore. Dottor Lovecchio, Luigi, c'è un ascoltatore, Antonio da Roma, te lo facciamo ascoltare in diretta. Antonio, buongiorno. Buongiorno. Ci chiede Antonio. Allora senta, io ho ricevuto la bolletta della Tari, ma però io ho un credito con la Tari di 266 euro, sì, da settembre del 2019. Però la Tari, per reclamare bisogna che lo faccio in via telematica, ma se io la via telematica non ce l'ho, come faccio? Certo, non si può andare in un comune, mannaggia. Luigi Lovecchio, a parte che questa cosa della via solo telematica, sì, no, insomma, diciamo così, siamo tutti digitali, però chi più chi meno, ecco, verrebbe da dire. Poi il comune dovrebbe saperlo se c'è un cittadino che ha maturato un credito d'imposta, non è che devi sempre andarlo a dimostrare tu, l'inversione dell'onere della prova, che è questo concetto che a me, da che conosco Mauro Meazza, mi è rimasto sempre un po' qua. Luigi, sì, allora, sì. Placa lo sdegno di Debora, per favore. Sì, no, ma soprattutto nella tassa rifiuti, la questione è abbastanza tranquilla, perché la tassa rifiuti si paga non su autoliquidazione come l'IMU. L'IMU, il contribuente si fa i calcoli, se li effettua a suo rischio e pericolo, e fa il pagamento sulla base dei calcoli che si è fatto. Questa si chiama autoliquidazione. La tassa rifiuti invece si paga su liquidazione d'ufficio, cioè è il comune che ti fa i calcoli e ti manda l'avviso con le somme da versare. Quindi da questo punto di vista è chiaro che il credito emerge subito al comune, anzi il primo che viene a sapere che io sono a credito è il comune. Quindi normalmente i comuni fanno così, che il credito lo riportano in compensazione con il primo bollettino successivo. Adesso non vorrei che l'ascoltatore forse non ha letto integralmente l'avviso di pagamento, in cui è possibile, ovviamente non ho più pallida idea se questo è avvenuto oppure già scontato, no, che il credito sia stato compensato e che quindi la somma da pagare sia già il netto dell'importo da versare, altrimenti ovviamente va segnalato al comune, ma ripeto, nella tassa rifiuti è il comune che fa tutto, quindi il credito deve essere scomputato direttamente dal comune. Vabbè, allora Antonio, controlli meglio il documento che le è arrivato e magari si faccia aiutare da qualcuno per capire se effettivamente questa compensazione c'è stata. Luigi, possiamo dare uno sguardo sul 2021? Perché allora cambiano un po' le cose, anzi cambiano parecchio le cose, specialmente sulla classificazione dei rifiuti. E questo però poi potrebbe tradursi in un rincaro per quanto riguarda i comuni cittadini, le famiglie. Ci puoi spiegare bene come funziona questa cosa? Sì, allora, dal punto di vista generale quello che accadrà è questo, la norma è già pubblicata, da questo punto di vista entra in vigore il 1 gennaio 2021. Scompare la categoria dei rifiuti speciali assimilati e restano due categorie di rifiuti. I rifiuti sono o urbani oppure speciali. Se sono urbani sono soggetti al pagamento della tassa rifiuti, se sono speciali sono esclusi dal pagamento della tassa rifiuti. Quindi le categorie che producono rifiuti urbani pagano la tassa, le categorie che producono rifiuti speciali non pagano la tassa. Da questo punto di vista la novità è rappresentata dal fatto che mentre oggi chi stabiliva l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani era il comune, dal 2021 l'assimilazione è stabilita dalla legge, quindi il comune non ha più nessun potere, è la legge che stabilisce quali rifiuti sono urbani e quali rifiuti sono speciali. Ora, chiarito questo, la novità, una delle novità che è stata introdotta è che è scomparsa tra le categorie delle attività che producono rifiuti urbani la categoria delle industrie, quella categoria non c'è più. Allora ci si chiede, è stato detto, se le industrie non sono più nelle categorie di attività che producono rifiuti urbani, vuol dire che le industrie sono completamente escluse dal pagamento della tassa rifiuti. Questo è già così oggi? No, non è così oggi, perché oggi le industrie normalmente non pagano sulle aree di lavorazione, ma sui magazzini, depositi, aree di esposizione e quant'altro, normalmente oggi le industrie pagano la tassa rifiuti. È chiaro che se dal 1 gennaio 2021 questa lettura, che a mio avviso non è, diciamo, pacifica, se questa lettura dovesse prevalere, allora quel pagamento, quel finanziamento del servizio che avveniva da parte delle industrie non ci sarà più, e quindi il costo dovrà essere sopportato dagli altri soggetti, tra cui appunto le famiglie. Perché, se ricordo bene, la Tari, ne avevamo già parlato quando c'era stato il problema del calcolo della quota variabile, eccetera, è un tipo di tassa che deve garantire la copertura di tutti i costi. Quindi, se qualcuno non si accolla più una parte dei costi, qualcun altro se la dovrà accollare. E ne è redistribuita. Brutalmente. Sì, è così, anche perché a questo aumento di costi non corrisponde, a questa detassazione di soggetti non corrisponde una proporzionale riduzione dei costi del servizio, cioè non è che siccome le industrie sono fuori dalla tassa allora il comune risparmia costi perché non fornisce più il servizio alle industrie, perché l'esperienza ci insegna che i costi per rendere il servizio alle industrie sono decisamente inferiori rispetto a quanto pagano le industrie per la tassa rifiuti. Quindi l'effetto finale di questa categoria, di questa nuova classificazione di rifiuti potrebbe, perché ce ne sono diverse di variabili, potrebbe determinare un incremento, esatto, della tassazione per le famiglie. Quante belle puntate divertenti faremo nel 2021. Bene. Allora chiudiamo in bellezza già questa, abbiamo un minuto per Gianni dalla provincia di Monza, è un tema oserei dire ricorrente. Gianni, buongiorno. Ci metto anche Donata da Taranto, perché il comune le ha mandato la bolletta di una casa in cui non vive più da 6 anni, cosa deve fare? Insomma, quando il comune fa delle richieste che non stanno né in cielo né in terra, sia per il papà deceduto di Gianni che per Donata. Gianni, allora Luigi, abbia pazienza, Gianni al caso del padre deceduto gli chiedono comunque la tassa rifiuti per una casa vuota. Luigi. Sì. Allora, dunque, la tassa rifiuti si paga anche per le case vuote, per le case tenute a disposizione. Quello che conta non è che l'immobile sia materialmente occupato, basta che l'immobile sia detenuto. Per non pagare la tassa occorrerebbe dimostrare di non avere nessuna utenza, cioè di non avere attiva né gas, né luce, né quant'altro. E per Donata, che non abita più in quella casa da 6 anni, il comune rivendica ancora? La casa è sua, perché se è sua, anche se non vi abita più, deve pagare. Se non è sua, quindi vi abitava in affitto per intenderci, e non c'è dubbio che è un errore clamoroso del comune, e quindi bisogna segnalare il fatto che l'utenza non è più sua, insomma. Grazie, rapido, preciso, come l'esame di Suarez, oserei dire. Ancora? Ma tutte le volte devi finire così, ma guardate che... Ma Gianmarco, lo devi censurare, come te lo devo spiegare tutti i giorni? Ti tolgo la cioccolata, vengo di là, ti tolgo tutti i viveri. Grazie a Luigi Lovecchio, grazie a voi. A Gianmarco Ferronato e Marco Lombardo. Cara Deborah, torniamo domani per l'alfabeto del risparmio, se vuoi. Ti interrogo domani. Va bene. Visto che parliamo di esami.